Abbiamo queste prediche estive, oggi è un tema leggero, parleremo di giustizia. Bello, eh? Non ho capito perché, sempre a me, però diciamo vi tocca. Quindi sono stato molto ispirato da questo, un po' anche perché il pastore la settimana scorsa ha parlato della bontà di Dio, di come riconosciamo la bontà di Dio quando noi capiamo la rivelazione di Dio per noi, comprendiamo anche la sua bontà. E c'è anche questo aspetto, io ho pensato molto a questo tema perché da qualche anno a questa parte una delle frasi più ricorrenti ogni giorno a casa mia è: non è giusto, non è giusto, spegni la TV, non è giusto, lascia stare i giochi adesso, non è giusto, devi andare a dormire, non è giusto. Sapete a chi mi riferisco? Avete una vaga idea più o meno? E questo è un po' quello che succede emotivamente in tutti noi, forse siamo meno sinceri dei bambini, no? Però ogni volta che noi ci troviamo davanti a qualcosa che va a mettere in disequilibrio la nostra vita, quindi vediamo un senso di ingiustizia nelle cose che ogni giorno ci capitano, che cosa succede dinamicamente dentro di noi? Si crea proprio un vuoto, no? Qualcosa che ha bisogno di essere colmato. È una cosa proprio che vive dentro di noi, perché noi portiamo un po' l'impronta di Dio, del suo modo di essere, perché Dio è giusto, sì? Mi avete già abbandonato? No, ma meno male, poi rimetto la lode col Supradin subito. C'è un profeta, c'è una lettura ricorrente in questo momento per me che è Amos, quindi volevo leggervi un po' questo verso per introdurvi questo tema, e dice: scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Amos è un po' il profeta della giustizia. Se noi pensiamo ai profeti, i profeti minori, li mettiamo tutti insieme come se fosse la Lega della Giustizia, della DC Comic, Amos sarebbe Superman proprio. Non so se avete confidenza con la Justice League. No. Vabbè, qualcuno sì, però supereroi, vabbè, non fa niente. In un'altra vita, dai, non fa niente. Dio è un Dio di giustizia, ci rivela Amos. Ci dice che Dio è giusto. In quel tempo c'era proprio un disequilibrio a livello sociale, delle ingiustizie enormi, e quindi Amos viene chiamato da Dio per annunciare proprio questa cosa qui, dire: no, quello che sta succedendo non è giusto. E Amos era una persona molto umile, era una persona, un mandriano, no? Un pastore. Eppure viene chiamato a questo difficile compito. Possiamo imparare molto dalle parole di Amos di come Dio è giusto, di come per lui è importante la giustizia sociale, è importante la giustizia rispetto al peccato. Che cos'è la giustizia rispetto a quello che è la caratteristica, l'identità di Dio? Perché Dio non è che ha la caratteristica di essere giusto, Dio è giusto. La sua identità è giustizia. Lo dice un salmo, il salmo 11:7, leggiamo un po' di versi oggi, dice: poiché il Signore è giusto e ama la giustizia. Dio è giusto, imparziale, perfetto. Quando dico queste cose in maniera enfatica, no? Un po' così, pensate a Gianluca, no? Che lui dice così: purissimo, giustissimo. Lui è Dio, è così. Ha una identità che noi forse non comprendiamo, ma che fa parte della sua identità. E quando noi ci confrontiamo con questo, ci sentiamo molto in difetto, perché quando entriamo in contatto con la santità di Dio, con la sua giustizia, inevitabilmente capiamo qual è la nostra identità invece, qual è la nostra natura, che è peccaminosa. Vi ricordate di Isaia? Isaia ha questa rivelazione di Dio, perché Dio gli appare, e lui la prima cosa che dice è: guai a me, Isaia 6,5, sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure. Quindi quando noi veniamo in contatto con la santità di Dio, inevitabilmente noi capiamo qual è la nostra natura, no? Diciamo, siamo peccatori. E perciò abbiamo necessità di comprendere fino in fondo la vera ragione del perché in tutta la Bibbia viene descritta la giustizia di Dio, di come questa ha influenzato la storia dell'umanità e dell'intero universo. Essendo Dio puro, ci scontriamo con la nostra natura che è impura, col peccato. E questo ha... Pensate a tutto il Vecchio Testamento, no? Che cosa è stata la rivelazione della giustizia di Dio. E le persone hanno timore, dobbiamo avere timore dell'identità che Dio è giusto. Io mi ricordo quando ho frequentato da piccolo la scuola domenicale. La scuola domenicale è un po' come l'incontro dei bambini che abbiamo qui in chiesa da noi, però in realtà è un po' più scuola coranica, perché era molto severa, nel senso che c'erano degli insegnamenti non proprio adatti ai bambini. Io mi ricordo un racconto del Vecchio Testamento di Giudici, credo sia quello, quando c'è stato il saccheggio di Gerico. Voi avete presente la storia di Gerico, che gli eserciti marciano 7 volte intorno alla città, le mura della città crollano, ci siete? Sì? Vi ricordate? Crollano e poi viene saccheggiata la città. E c'è una persona del popolo di Israele che si chiama Acan, che prende parte del saccheggio e se lo tiene per sé. Che cosa succede ad Acan? Che viene scoperto, perché ovviamente il popolo di Israele perde una battaglia, Giosuè si lamenta con Dio, dice: ma perché abbiamo perso? Tu sei il nostro Dio. Ma perché c'è un interdetto, c'è un peccatore in mezzo a voi. E quindi viene scoperto, e cosa succede ad Acan? Viene preso lui, la sua famiglia, i suoi figli, la sua tenda, le sue cose, e viene bruciato. Ora, questa cosa l'hanno insegnata a me che avevo 6-7 anni, quindi poi potete capire qual è la mia idea di come sono cresciuto anche nel concetto di vedere Dio come un Dio giusto. Io ho fatto pure il disegnino di Acan che veniva bruciato e ho preso un bel voto. Comunque non è giusto fare la scuola domenicale, perché tutti i miei amici avevano la domenica libera, solo io dovevo andare a scuola pure la domenica. Però vabbè, adesso si chiama incontro dei bambini, molto meglio, no? Vogliamo bene ai nostri bambini, insegniamo delle cose pure e piene di grazia. Quindi spesso la giustizia di Dio era accompagnata anche da eventi terribili. Pensate al diluvio. Il diluvio è stata la conseguenza dell'idea che Dio diceva: ma come, io ho fatto il Dio, ho fatto il mondo, perfetto, era tutto funzionante. All'improvviso questi hanno iniziato a peccare, cancelliamo tutto, via. Le piaghe d'Egitto, perché c'era il faraone che aveva indurito il suo cuore, non lasciava andare il suo popolo, arrivano le piaghe d'Egitto e portano sterminio tra il bestiame, tra le persone, tra le cose. Vi ricordate, no? Terribile. Sodoma e Gomorra, il fuoco che cade dal cielo. Tutto questo non è in contrasto con quello che conosciamo di Dio, perché Dio è giusto. È giusto. Quando entra non può entrare in contatto con il peccato, e quando si scontra la sua realtà santa con la nostra realtà peccaminosa, inevitabilmente arrivano delle conseguenze. Le conseguenze sono state quelle che noi abbiamo visto anche nella storia del popolo di Israele. Eppure Dio aveva un piano, perché diceva: io nel mio cuore ho idea di salvare l'uomo e l'umanità. È stato il primo pensiero da quando Adamo ed Eva hanno peccato, no? Sapete la storia. Eppure dovevamo trovare un compromesso, no? Cercare di non negoziare la giustizia di Dio, ma pagare le conseguenze del peccato. E voi sapete bene che mi sto riferendo all'azione di salvezza e di grazia che abbiamo avuto attraverso la rivelazione di Gesù. Solo un sacrificio puro, immacolato, poteva pagare il prezzo e la sete di giustizia che c'era in Dio, perché c'era stato qualcosa che aveva rotto l'equilibrio del mondo e doveva essere recuperato. Potete solo immaginare qual è stato tutto il percorso di questo. Io ho sempre in mente l'idea di come sia potuto succedere, ma è successo. Quando Gesù è arrivato, tutto è cambiato. Lo sappiamo perché lo abbiamo anche noi ricevuto, noi abbiamo avuto rivelazione di questo, perché quando noi non c'è un altro modo per arrivare alla salvezza se non accettare quello che Gesù ha fatto per noi, giusto? Non c'è un altro modo. Io mi posso sforzare, e la Bibbia ce l'ha insegnato, Gesù ce l'ha detto chiaramente, quando ha trovato delle persone che erano molto religiose, dicevano, ma io se faccio bene, Dio mi terrà nella sua giustizia, Dio mi riterrà giusto. Ma Gesù ci ha insegnato che anche tutta la tua buona volontà di praticare una giustizia che tu ti puoi autoimporre e dire io farò così e così perché è giusto, non sarà mai sufficiente. Perché l'unica cosa sufficiente per pagare la sete della giustizia di Dio è Gesù. Era un sacrificio puro, cioè se stesso. È un paradosso, inspiegabile, ma è così. Quando veniamo in contatto con questa realtà, non possiamo fare altro che piegare le nostre ginocchia e dire, Signore, abbi pietà di me, accoglimi tra le tue braccia, perché ho bisogno del tuo perdono, io ho bisogno della tua giustizia che si rivela nella grazia di Gesù. Ci siete? È molto dottrina, però dobbiamo chiarire questo prima di parlare ancora più a fondo di tutto quello che vorrei condividere con voi. Dio è giusto e poi abbiamo la necessità di applicare tutto questo alla nostra vita personale. Io ho accolto il perdono di Gesù e anche voi, se siete qua e siamo oggi insieme perché abbiamo ricevuto grazia. Abbiamo compreso che Gesù ci ama, che ci ha tanto amato che ha dovuto creare questo sistema di giustizia per noi, per salvarci. E anche se io sono un credente, anche se io ho accolto questa salvezza nel mio cuore, vive dentro di me un piccolo giudice, un piccolo Vito, no? Che sta in giro per la mia testa, per il mio cuore, che si veste con la toga, col martello, ed emette giudizi. Sapete a chi emette giudizi? A me stesso. Sta lì a giudicarmi in continuazione. E voi sapete di che cosa sto parlando, no? A volte dobbiamo fare i conti col fatto che noi ci autoaccusiamo e siamo lì a volte a dover riprendere anche delle situazioni che avremmo dovuto già abbandonare da tempo. Eppure facciamo ancora i conti con questo, col fatto che non andiamo bene, che sbaglio sempre, non sono buono. Questo modo di pensare è un autogiudizio, no? Ma è un autogiudizio tossico che ci avvelena, perché noi siamo là non ad accogliere la grazia di Dio e il senso della sua giustizia, ma siamo ad accogliere più le nostre accuse, il nostro modo di vederci, perché noi siamo cresciuti con un'idea di noi stessi, no? Abbiamo imparato da chi abbiamo visto, abbiamo le nostre esperienze ci hanno formato, ci hanno creato un'identità. Eppure, nonostante abbiamo accolto il perdono e la grazia di Dio, rimaniamo vittime di questo autogiudizio velenoso e tossico. Succede solo a me? È una cosa un po' molto fastidiosa. Se proprio dobbiamo creare un sistema di autogiudizio, deve essere un modo sano di proporci rispetto a quello che ci accade, a quello che viviamo e come giudichiamo le nostre azioni. Noi siamo i primi giudici di noi stessi, ma dobbiamo accoglierci ancora una volta facendo uno sforzo di fede e di giustizia nel prendere il perdono di Dio e valutarci attraverso quello che Dio vede di noi, non quello che noi vediamo di noi stessi. È inevitabile che noi pecchiamo, è inevitabile che noi sbagliamo. Cosa succede se noi facciamo questo? Stiamo lì, ci fermiamo, ci blocchiamo, è quello che Dio vuole da noi? È questo che Dio vuole praticare in senso di giustizia verso di noi? No, perché Dio ha provveduto per noi grazia, Dio ha provveduto per noi perdono. Non è un'autoassoluzione, ma è accogliere il vero senso della giustizia di Dio verso di noi. È un lavoro difficile, ma è importante, perché se vogliamo vedere dei progressi nella nostra vita, dobbiamo accogliere questo senso di autogiudizio, che è un senso di dire: io ho sbagliato, o mi sono arrabbiato per una cosa X, eppure non avrei dovuto farlo. Che cosa posso fare lì? Mi do addosso oppure dico: voglio fare meglio? Voglio fare meglio è un modo di giudicare noi stessi. Vuol dire accogliere la grazia di Dio e dire: io voglio seguire te nonostante questo. Io voglio andare avanti perché credo in te e credo che tu vedi il meglio di me, non quello che io vedo di me stesso. Ha senso? A volte siamo lì a darci addosso, invece abbiamo necessità di spingere la nostra vita in avanti verso Dio, dove Dio vuole, non dove il nostro cuore ci blocca, ci stringe e ci costringe a fermarci perché non riusciamo ad assolverci. Ma non ci potremo mai assolvere, perché se dovessimo dipendere da quello che facciamo di buono o quello che facciamo di male, noi riduciamo il senso della grazia di Dio e della sua giustizia. È chiaro? È molto sottile questa cosa. Io vi invito a fare un esercizio, no? Quando succede qualcosa di difficile e crea in noi di fatto una bugia e dico: io non valgo nulla davanti ai miei errori, davanti ai miei peccati, le mie insufficienze, allora posso ricordare che Isaia 43 dice: sei prezioso ai miei occhi. Quando penso: Dio si è stancato di me, io posso dire che la sua bontà dura per sempre. Salmo 136, no? Io sono proprio irrecuperabile. Dove è abbondato il peccato, è sovrabbondata la grazia di Dio. Possiamo dire amen a questo? Mamma mia. Quando sei davanti a Dio, non ti assolvere e non ti condannare. Vai davanti a Dio e di: io sono questo, ho vissuto questo, ma voglio continuare a seguirti. È quello che Dio si aspetta da te. Quando vedo i miei figli che sbagliano, non mi aspetto che loro capiscano immediatamente come fare meglio. So che sbaglieranno ancora, faranno ancora errori, ma quello che io mi aspetto è che capiscano che hanno sbagliato e che chiedano scusa. Io sono sicuro che Dio ha un senso paterno in questo, che dobbiamo imparare ad accogliere. Togliamo, scrolliamoci di dosso questo senso di dire: mi giudico io e so come devo fare perché so che cosa è giusto e sbagliato. No, Dio è giusto e io non lo sono. E se voglio entrare nella sua giustizia, devo accogliere il suo perdono. Non c'è un altro modo. Sì? E come invece lo applichiamo, questo senso delle cose, invece agli altri? Se abbiamo capito come gestiamo il giudizio verso di noi, poi arriva la parte difficile, come gestiamo le relazioni con gli altri? Noi abbiamo sempre difficoltà, subiamo comunque degli attriti in famiglia, al lavoro, in vicinato, in chiesa. Insomma, capita comunque di dover gestire il nostro senso di ingiustizia, no? E abbiamo bisogno di dire, come dice mio figlio: mi vendicherò. Non è giusto, perché si è creato quel vuoto, io lo devo riempire, di qualcosa lo devo riempire, giusto? Spiegarmi meglio su questo, prendendo un passo della Bibbia che conosciamo tutti, che è quello che Gesù ha fatto con una donna che era stata colta in adulterio. Avete presente questo racconto? Allora c'è Gesù che incontra questi farisei, c'è una folla, ci sono urla, c'è gente che sta schiamazzando e dice avete visto che è successo? Che è successo? Hanno trovato questa donna qui che ha tradito il marito, vedi? Lui è andato via, è scappato e invece lei è rimasta qui, che facciamo adesso? Gesù, no? Qual è la regola? Qual è la regola? La lapidazione. E lì Gesù si ferma, si mette seduto a terra. Io non so cosa stava pensando in quel momento, se stava ripetendo i versi di Esodo, di Levitico, dire qual è la giusta punizione per questa donna. Grazie Onofrio, abbiamo il gadget. Qual è la giusta punizione per questa donna? La lapidazione. Ma Gesù ha fatto questo? Era questo il senso? Il senso della giustizia di Dio non è la distruzione, è la restaurazione. E spesso noi dimentichiamo questo metodo, perché Gesù risponde alle persone che lo stavano insidiando dicendo «Ehi, chi è senza peccato, scagli la prima pietra», no? Vi ricordate? Qualcuno ha lapidato quella donna? Poi Gesù cosa ha detto? Neanche io ti condanno, perché ha detto dove sono quelli che ti accusano? Neanche io ti condanno. Va e non peccare più. È questo il senso della restaurazione. Davanti al peccato arriva la giustizia di Dio con la sua grazia che paga il peso di quel peccato e dà una seconda chance, e dà una seconda possibilità. E dà un altro percorso. In questo si realizza la giustizia di Dio. E io devo fare i conti ogni giorno con questo, perché non sono sempre nell'idea di dover capire il senso di questo e applicarlo poi praticamente. Io volevo farvi vedere questa cosa. Poi andiamo verso la conclusione. Questo è un bilancino a giocattolo. Spero di domani di riuscire a fare il reso. È molto semplice, perché la vita è fatta di cose pratiche. Io quando penso che la gente mi taglia la strada, non mi dà la precedenza, non è giusto. Non è giusto quando i miei vicini mi danno fastidio, non è giusto. Non è giusto che io mi ammali. Non è giusto che un bambino si ammali di cancro. E non è giusto che qualcuno venga così massacrato perché c'è una guerra in corso, i massimi sistemi, no? E non è giusto che la gente che fa la fila per andare a mangiare venga uccisa. E non è giusto, e non è giusto, e non è giusto. E capitano le giornate così, vero? Una volta è capitata una giornata così pesante per me. E quando io dicevo, e adesso chi pagherà per tutto questo? Chi paga per tutto questo, per tutta questa ingiustizia? E la vocina chiara e limpida diceva, io ho pagato per tutto questo. Io ho pagato per tutto questo. Gesù ha pagato tutto, tutte le tue ingiustizie, tutto il senso della tua ingiustizia. Come lo fa? Pagando il prezzo di una pace che non riuscirai mai ad avere quando entri in contatto con tutto questo. Pagando l'amore sufficiente per farti capire che sei amato comunque quando le cose non vanno bene, non sei amato e non sei apprezzato. Lui paga la grazia sufficiente quando io non riesco ad applicarlo. È Lui la mia giustizia, non ho altro, non ho altro, non ho risorse. Il regno di Dio, no, ci dice proprio Gesù, ci insegna, cercate prima il regno di Dio e la sua. Ora, il regno di Dio è fatto di cose molto pratiche. Quando ti trovi davanti a tutte queste ingiustizie, puoi scegliere se vuoi coprire quel vuoto con il tuo senso di giustizia o se lo vuoi coprire con Gesù, lo vuoi riempire di Lui. È come entrare nell'idea di voglio entrare in una dimensione diversa quando succedono queste cose, voglio entrare nel mondo spirituale, non le voglio affrontare come io posso affrontarle, come mi viene istintivo affrontarle, perché per me è difficile, Gesù, l'altra guancia, è difficile, Gesù, il miglio in più, è difficile, Gesù, il mantello oltre la tunica. E questo è il regno di Dio. Il come te di quest'anno è un tema, ma io devo scegliere di accogliere o respingere questo, perché Gesù vuole questo per la mia vita, Gesù vuole questo per la tua vita. Siamo chiamati forse come chiesa a fare un salto in avanti anche spiritualmente, oltre a quello che vediamo con i nostri occhi naturali, con quello che noi percepiamo nella nostra quotidianità. Possiamo scegliere, come posso scegliere la giustizia di Dio, come la applico? Se ho ricevuto giustizia, perché non la devo dare? E non è la giustizia che stai pensando con la tua mente o con i tuoi sentimenti, è la giustizia della grazia. È la giustizia della grazia, perché Dio è buono e tutto questo un giorno verrà pagato, ma non è questo il momento. Questo è il momento della grazia. Un giorno tutto verrà pagato, sarà tutto pagato completamente, non ci sarà ingiustizia che non verrà pagata. C'è scritto che in Apocalisse, no? Che c'è questa Gerusalemme con questa visione di una piazza, di una città dove scorre un fiume. Vi ricordate Amos che dice scorre il diritto, scorre la giustizia, quella giustizia non finirà mai, quella giustizia continuerà a scorrere per te, per me, sempre, in eterno. E tutto verrà portato nella purezza e nella santità di Dio, così come Lui l'ha stabilito. Ma oggi confrontiamoci con questo e scegliamo di vivere il suo senso di giustizia. È una sfida per me, non so se volete prenderla per voi, però è una sfida grossa per me, e io voglio imparare da questo, non a vivere i miei sentimenti o reagire con i miei sentimenti, ma accogliere il senso della grazia che Dio mi ha dato, che voglio dare anche agli altri. E voglio darla prima di tutto a me stesso, perché ho bisogno di darla a me stesso prima che agli altri. Vogliamo alzarci in piedi? Possiamo chiudere un attimo i nostri occhi? Vorrei pregare per voi, per me, per noi tutti. Però prendiamoci giusto un minuto per riflettere su questo. In quale area della nostra vita il Signore ha bisogno di agire di più? Più forse nel tuo autogiudizio? Di recuperare un senso vero di giustizia nei tuoi confronti, perché Dio ha pagato per te. E nel modo in cui gestiamo la giustizia nei confronti degli altri. Cosa possiamo fare riguardo a quello che abbiamo capito di Dio, perché questa è una rivelazione di Dio. Non la possiamo applicare se non ci viene rivelata. Quindi davvero, Signore, io ti prego per me, per tutti noi qui, che tu possa mostrarci di più di te, comprendere di più del senso delle cose. Non per quello che immagino io, quello che ho capito io, ma per chi sei tu veramente. E lo voglio vedere per me stesso, Signore, per tutte le volte che non mi perdono. Lo voglio vedere ancora per me stesso, per tutte le volte che non perdono. Signore, aiutaci ad accogliere il tuo regno, a viverlo completamente nel senso delle cose che tu vuoi, Signore, non quello che noi capiamo umanamente, perché quello che noi capiamo umanamente è così basso, ha un senso ma non è sufficiente, non è sufficiente, non è sufficiente, perché tu sei sufficiente, tu basti, tu copri, tu sei il contrappeso ad ogni ingiustizia. Tu puoi soddisfare il mio dolore, la mia incredulità, i miei dubbi. Tu sei la mia pace. Tu sei la bontà. Tu sei la grazia. Tu sei giustizia. Nel nome di Gesù. Amen.